Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Siamo andati in vantaggio, abbiamo preso un grosso punizione in un momento della partita in cui non ci stava e questo ci poteva completamente abbattere, invece la squadra ha reagito e è andata a vincere la partita. Questo è un evento importante, cosa che non eravamo in grado quasi mai di fare 2 anni fa e che l'anno scorso a volte abbiamo fatto e a volte no. Higuain, Dybala! 4-0 Juve e alla fine segna sempre lui. Quello che mi interessa più che altro oggi è il dire che la vittoria è sempre fondamentale. Devo dire che ho visto anche un'ottima manovra da parte della squadra. Potevamo fare sicuramente qualche gol in più e siamo stati poco determinati in alcuni momenti della gara, però non posso che essere soddisfatto della crescita di questa squadra. Passa per Immobile, al limite, Immobile dall'altra parte, Marusic! Il primo gol in campionato di Adam Marusic! Non ci siamo piaciuti, siamo stati insufficienti sul piano agonistico, anche sul piano tecnico, troppe situazioni al di sotto della media, non credo che sia una bocciatura per qualcuno o per tutti, siamo in costruzione, siamo giovani e questi risultati non ci piacciono, dobbiamo cambiare il trend, quindi dobbiamo reagire e lavorare sul materiale che c'è a disposizione, che è buonissimo. Parte l'angolo, colpo di testa, rete d'Ambrosio! Allora, questo è il riassunto sonoro di cosa è successo nel sabato e nella domenica. Io vi do subito i nostri contatti: 800240024 per chiamare e intervenire in diretta. Parleremo ovviamente anche di MotoGP di Valentino Rossi, parleremo del mondiale di ciclismo che si è chiuso con l'ennesima delusione azzurra. Se volete scriverci 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Parleremo molto di Milano, che a mio parere esce fortemente ridimensionata da questo turno, perché i risultati non sono tutto nella vita e io credo debba preoccuparsi Spalletti, esattamente come abbiamo sentito si preoccupa Montella. Vi leggeremo anche le parole di Marco Fassone, che ha strigliato duramente la squadra, ma io credo ha strigliato duramente per la prima volta anche il suo allenatore. C'è qui Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. La classifica dice che ci sono Napoli e Juventus in testa con 18 punti, poi c'è l'Inter a quota 16, quindi Lazio 13, Roma 12 con una partita in meno, 12 punti come il Milan, Sampdoria, Toro 11, poi via via tutte. Andiamo subito a San Siro al nostro Dario Ricci, ciao Dario. Ciao ragazzi, buona domenica. Con me collegato Mirko Graziano, l'inviato della Gazzetta dello Sport, con cui condividevamo su per giù, Mirko, le stesse riflessioni che un po' ha anticipato Giovanni, perché l'Inter che si è vista oggi, che all'87esimo ha risolto a fatica la pratica contro un Genoa volenteroso, ordinato e che in qualche occasione ha impensierito anche Handanovic, è sicuramente un Inter con più ombre che luce. All'87esimo il colpo di testa di D'Ambrosio, alla fine del primo tempo c'era stato il palo di Brozovic, ma non sono mancate le occasioni anche per il Grifone con Tarapta. Al 43esimo bravissimo Handanovic a respingere, così come lo stesso portiere sloveno ha salvato nella ripresa su Omeonga. Nel finale poi si è vista questa stellina, Caramo, che Spalletti ha lanciato in campo insieme a Eder quasi per disperazione. Sono arrivate le espulsioni anche di Omeonga e dello stesso Tarap proprio per fallo sul francesino. Mirko, un Inter che porta a casa di dategli buono il voto, solo dai. Risultato direi oggi. Dategli il voto all'Inter. Il voto dell'Inter oggi è 5,5, giusto perché ha portato a casa i 3 punti, ma per me non è una novità, io l'ho scritto in settimana, l'ho scritto venerdì. Questa è una squadra che non è adeguata a puntare con sicurezza a un posto Champions, dovrà intervenire in maniera importante a gennaio sul mercato, perché mancano troppe cose, manca manca un'alternativa in difesa, manca un centrocampista di gamba che porta la palla su di 30 metri con uno strappo, manca un'alternativa ai cardi davanti, manca il giocatore che salta secco l'uomo, che crea superiorità numerica, tant'è che quando è entrato questo ragazzino ha fatto 2-3 numeri ed è sembrato che si accendesse la luce, ma calma, perché parliamo di un ragazzino che ha ancora tanta strada da fare, anzi quei pantaloncini tirati su dopo 2 dribbling sono preoccupanti e lì dovrà intervenire l'allenatore a spiegargli di non fare troppo, diciamo, sì, il fenomeno, no? Diciamo che, così, che bisogna, diciamo, così. Sapersi adattare al calcio dove si entra. È qui giusto, l'Inter, no, è Mirko? Una squadra senza talento, questo è il problema. L'Inter in questo momento è una squadra senza talento, senza cambio di ritmo, senza appunto cambio di passo, è una squadra che non inventa niente dalla metà campo in avanti, deve arrivare per passaggi molto geometrici e quindi è una squadra tra virgolette noiosa. Cosa c'è di buono? C'è di buono la classifica, c'è di buono, diciamo, la solidità della struttura del gioco, comunque penso che sia la miglior difesa del campionato, è una squadra che subisce, ha subito solo 2 gol mi pare, se non ricordo male. Sì, siamo fermi a due. Diciamo che resta in partita fino alla fine e questo è un grosso vantaggio, ma ripeto, farà molta fatica ad arrivare a gennaio a ridosso della zona Champions, ci deve arrivare e poi lì deve intervenire pesantemente la società. Io lo dico perché già arrivano i messaggi, ovviamente i tifosi dell'Inter che credono che ci sia un accanimento, questa è la lettura, poi dopo parleremo invece dei problemi del Milan che sono forti e ripeto vi leggeremo che cosa ha detto Fassone indirettamente su Montella, che apre secondo me tanti ragionamenti, tanti scenari. Certo, ragazzi, lo dicevamo anche stando in redazione, i risultati non coprono tutto. No, però insomma mi sembra sia un po' severa l'analisi di tutti voi sull'Inter. Alla fine 2 gol subiti, è lì in quantomeno in scia alle 2 superpotenze Juventus e Napoli. Ha ragione Mirko Graziano, probabilmente manca un po' di creatività e di talento in questa squadra. Però siamo all'inizio della gestione Spalletti, mi sembra una gestione diversa rispetto agli 1-0, 1-0, 1-0 della gestione Mancini. Work in progress, io sarei un pelo più fiducioso, io sono anche d'accordo con te, il problema è che non ci sono margini di miglioramento in questa rosa, capito? Cioè l'Inter deve andare avanti così, con questa filosofia di gioco, quindi con un gioco tra virgolette abbastanza noioso, solido, e sperando appunto di non incappare in una serie di brutti risultati. Il problema dell'Inter adesso... Amico, scusa, ci sono anche dei giocatori che si stanno un po' perdendo, si sono già persi. Mi vengono in mente Joao Mario e Gagliardini. Recuperarli pienamente vuol dire aumentare le potenzialità di questa rosa. Sì, guarda, ma non Joao Mario io credo che sia questo. Esatto, bravo, esatto Carlo. E comunque Joao Mario io credo che sia questo. Su Gagliardini invece, Gagliardini ha dei margini importanti e soprattutto ha avuto dei problemi fisici, si sta riprendendo fisicamente. Io credo che Gagliardini possa essere un giocatore diverso, migliore. Però ripeto, manca proprio la creatività. Questa è una squadra che non ha talento, ma è molto solida e deve arrivare così a gennaio. Poi però a gennaio deve intervenire, perché sulle 38 partite non reggi, soprattutto il confronto con, secondo me, le prime tre, diciamo, forze di questo campionato, che sono Juve, Napoli e la stessa Roma, che è una rosa molto importante. E poi te la devi giocare con la Lazio, con il Milan, e quando c'è un solo posto in palio può succedere di tutto. E l'Inter quest'anno non può permettersi di rimanere fuori dall'Europa che conta, secondo me. Sì, discorso che, ribadiamo, vale per mille motivi, vale anche per gli altri, vale per il Milan, vale per la Roma in maniera minore, vale per la Lazio, però a maggior ragione quel quarto posto almeno non si può perdere, e io credo nell'ultima settimana sia emerso in maniera plastica quanto sia stato incompleto il mercato dell'Inter, e non solo per il terzo difensore che manca, e si è tornati a ragionare su Ranocchi e poi D'Ambrosio. Allora io saluto Mirko Graziano da San Siro, Dario Ricci invece resta lì e lo sguinzagliamo a caccia di altri ospiti, anche perché adesso parliamo anche del Milan subito dopo il traffico. Mi fate sentire invece Simone Inzaghi, che sta parlando ai microfoni di Premium. Inzaghi 3-0 della Lazio a Verona e quarto posto, sta facendo anche lui il miracolo, come Spalletti del resto, due squadre che hanno il valore aggiunto in panchina. Sentiamo Inzaghi. Che era una partita molto, molto delicata per noi, insomma, perché mercoledì c'era stato un brusco stop che purtroppo non era preventivato, anche se giocavamo col Napoli, perché per quello che avevamo fatto vedere non era... non era preventivato, però sono stati bravissimi ragazzi, ma insomma l'avevo detto in conferenza, ero tranquillo perché sapevo che chi sarebbe entrato avrebbe fatto il suo dovere. Abbiamo giocato una buonissima gara, abbiamo giocato a calcio, palla a terra e siamo stati bravissimi, insomma abbiamo vinto su un campo non semplice. Senta, allora, queste sono le prime parole di Simone Inzaghi a Premium. 800 24 00 24, prenotatevi, vi aspettiamo fino alle 19. Scrive un amico via WhatsApp: l'Inter doveva andare a processo già all'Olimpico. Magari facciamo anche il conto di quanti dei 16 punti che l'Inter in classifica in questo momento sono completamente meritati e reali. Dai, traffico, torniamo subito. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, la rileggo la classifica: Napoli, Juventus 18 punti, Inter 16, Lazio 13, Roma, Milan 12. La Roma ha una partita in meno, quella saltata a Marassi contro la Sampdoria, tutt'altro che scontata. Ma giocheranno tra fine dicembre e inizio gennaio, vedremo quale sarà in quel momento lo scenario. Di certo la Sampdoria vista oggi è una squadra difficile da battere in casa, il Milan l'ha scoperto sulla sua pelle. Vedremo che cosa sarà a metà stagione. La Roma si sta ritrovando, sta trovando delle certezze. Scrive un amico: i tifosi dell'Inter si devono accontentare della concretezza di Handanovic. Poi ancora un altro, Federico, immagino, campionato falsato dalla fortuna sfacciata dell'Inter che vince ogni volta che merita di perdere. Io non credo che oggi meritasse di perdere. No, però certamente tra Crotone, Bologna e oggi contro il Genoa, 7 punti non sono la fotografia esatta di quello che è stato il rendimento dell'Inter e dei suoi meriti. Ma non è la fotografia esatta, però è una fotografia, Giovanni. Alla fine, meriti o demeriti, oggi non ha giocato una partita eccellente. È chiaro che queste partite, ma l'analisi è stata perfetta, quella di Mirko Graziano, cioè una squadra che comunque manca del colpo di genio. Però l'Inter intanto è lì. Piaccia oppure no, l'Inter è lì, ha giocato a Roma già una partita vera e l'ha vinta. Quindi non sarei così pessimista su questa squadra. Mi sembra comunque una squadra molto solida, molto equilibrata, molto bilanciata. Sui margini di miglioramento parliamone, perché secondo me ne ha di margini di miglioramento. È all'inizio del percorso Spalletti. L'anno scorso dicevamo è una rosa che può anche competere per i piani alti della classifica. La rosa non è stata toccata, i giocatori sono stati rivitalizzati. Certamente manca qualche cosa questa squadra. Il ritmo, però, che si è visto in queste partite non è il Napoli che difficilmente te le fa vincere tutte. Quando capita nel corso della stagione, poi cambia anche il vento, perché capita anche che nell'arco di una stagione ci siano poi le giornate in cui magari ti gira storto. Torniamo a San Siro, Dario. Eccomi qua con Vai. Franco Ordine, l'inviato del giornale, amico. Ciao Franco. Convocati. Ciao Ciccio. Parliamo anche di Milan, allora, dai. Parliamo delle milanesi che escono un po' così. Il vento che arriva da Genova qui a San Siro, da Marassi. Beh, intanto sentivo Giovanni che diceva poco fa: non sarà facile vincere a Genova con la Sampdoria. Non mi pare che la Sampdoria abbia fatto una partita straordinaria, strepitosa, e il Milan che è una roba inguardabile. Ho sentito e letto le dichiarazioni di Fassone. Allora aspetta che le leggiamo a tutti, così tutti sanno di che cosa stiamo parlando. Allora Fassone dopo la partita ha detto: non so se sia questione di livello dell'avversario che si incontra, la Samp non è del nostro livello, Giampaolo è stato bravissimo, gli vanno fatti i complimenti, ma il Milan è più forte della Samp e deve approcciare la partita in modo diverso. E poi ancora, qualche campanello di allarme lo abbiamo avuto, oggi siamo arrabbiati, sono venuto a parlare perché queste sconfitte non devono essere considerate routine, il Milan non deve perdere contro avversari ritenute più deboli di noi. E poi ancora ha detto: non ci è piaciuto oggi l'atteggiamento, non deve avere alibi alle spalle, deve essere cambiato velocemente. Sì, secondo me, aggiungo Ciccio, secondo me Montella deve decidersi a trovare 11, a battezzare 11 titolari, perché sennò da lì non ne esce. È chiaro che è una squadra nuova, deve battezzare 11 titolari e andare con quelli. Credimi Carlo, non è questo il problema, perché poi praticamente li ha battezzati i suoi 11 titolari. Certo, questa è una settimana nella quale c'erano tre partite e quindi qualche piccola modifica l'ha fatta. Il punto secondo me è questo. Allora, primo, Fassone mette nel mirino Montella ed era inevitabile, visto che lo stesso Montella ha detto la società merita 10, quindi finora lui merita 4, 4 e mezzo, massimo 5, punto primo. Punto secondo, la verità è che Fassone, oltre a mettere nel mirino Montella, perché ci sono una serie di errori, insiste su Suso in quel ruolo che non è roba sua, non riesce a masticarlo, non riesce a digerirlo, gli è indigesto completamente. Poi alcune scelte, mette dentro Zapata anziché Musacchio, e Zapata commette gli errori decisivi su tutti e due i gol. Poi Çalhanoğlu. Allora, questo è il primo problema di Montella. Il secondo problema riguarda la caratura tecnica, la cifra tecnica del mercato. Molti superficialoni, siccome c'erano 11 acquisti, ah bello, fa il Milan fuochi d'artificio, il Milan arriva allo scudetto, cioè, e non è così. La verità è che il Milan ha preso dei buoni giocatori, non buonissimi giocatori e nemmeno top player. Un paio ne ha di top player, uno è in forma discutibile, Bonucci, l'altro ha patito in maniera incredibile la terza sfida, Biglia. Sì, su Bonucci poi diciamo due cose, perché tu sottolinei gli errori di Zapata, ma anche Bonucci sul primo gol è stato ampiamente rivedibile, no? Sì, no, ma anche Bonucci si vede chiaramente, però mentre Bonucci, possiamo dircelo tra di noi senza farci influenzare da queste robe qua, Bonucci è chiaramente fuori condizione, è in clamoroso ritardo di condizioni e deve anche un po', tra virgolette, come dire, adattarsi, le misure, sì, adattarsi. Poi non un è Beckenbauer, Ciccio, alla... è un grande giocatore, ma non è quello non è mai stato Beckenbauer, ma adesso farlo trasformare, perché è venuto via da Torino e dalla Juve, trasformarlo in un bidone è un'operazione che non si può fare. Volevo sapere anche da Luigi cosa ne pensa, perché comunque Fassone che mette nel mirino Montella rappresenta una svolta, cioè la caduta dell'Olimpico aveva rappresentato l'accelerazione verso la difesa 3, il nuovo modulo che è crollato anche in questo caso al primo vero test, oggi a Marassi dopo partite comunque più semplici sulla carta. Oggi può voler dire molto, credo, anche dal punto di vista ambientale, che cosa succede nel dopopartita. Che analisi direi mi fate? Direi di sì, perché sono parole pesanti, come diceva anche Franco Ordine, e forse segnano il primo scarto, no? Il Milan dei tanti, scusate, sorrisi. È inutile che adesso raccontiamo la favola di Cappuccetto Rosso. Allora, qui il primo che salta è Montella, perché la società è convinta di aver fatto una operazione di mercato spettacolare. Quindi in preavviso. Quindi sì, però Ciso, sarebbe una follia, posso dire. A me lo dici, certo che è una follia. Certo che è una follia, perché lui commette degli errori, ma il problema non è tutto Montella. Il problema è aver considerato questo mercato un mercato da scudetto. Questo è il punto fondamentale. Salta Montella cosa significa? Perché prima della sosta manca Milan-Roma, dopo c'è Inter-Milan. No, io non penso che sia una roba di... Ecco, adesso di cosa stiamo parlando? No, però sai, dando un'occhiata al calendario... Stiamo parlando del fatto che secondo me tra il derby e la Juve comunque i conti poi si terranno alla linea e i conti si faranno. Le famose 10 partite. Grazie Franco. Dario, saluti. Dario, la tua impressione invece? Sì. No, l'impressione è questa qui, che ci sia stato uno scarto, no? In questa dialettica. Finora abbiamo conosciuto il Milan dei sorrisi, il Milan impegnato sul mercato e anche sui fatturati. Oggi queste sono parole da ancien regime, no? Avrebbe potuto anche pronunciarle qualcun altro e sarebbero suonate magari con un eco maggiore, ma altrettanto dure. È chiaro che qua, per esempio, oggi quando siamo arrivati si parlava di Conte, c'è un 3-5-2 che allora poi ci starebbe proprio bene con quell'allenatore. È chiaro che certe fibrillazioni accompagnate da questi capitomboli lasciano il segno. Ma ascoltate, lo chiedo anche agli ascoltatori, ma voi mettete a novembre un altro paio di risultati discutibili, salta Montella, che succede al Milan? Butta via una stagione, butta via un sacco di soldi, e non dimentichiamo che il Milan in questa stagione si è giocato l'all-in, cioè con tutti questi acquisti o entra in Champions League o rischia di saltare. Però l'elemento entusiasmo fa tanto, ho capito, e io lo accomuno anche a ciò che succede in questi giorni, in queste prime giornate all'Inter. Allora, io libero Dario Ricci, ciao Dario, a meno che non succeda qualcosa, eventualmente ci richiami. Stiamo per sentire Spalletti. Maurizio da Roma, Maurizio. Buonasera, buon pomeriggio. No, volevo dire, io per quanto riguarda il tifoso del Milan, su Montella, io non è che la vedo proprio in maniera negativa il fatto di un avvicendamento, di una sostituzione, perché è una squadra che non ha nervo, non ha spessore agonistico, messa in campo in maniera, penso, non scriteriata, ma comunque non c'è una logica. Il dottor Ordine è stato molto preciso, ha detto Suso in quel ruolo è un non senso, cioè continuare a insistere. Allora io ho l'impressione che il Milan sia andato, i dirigenti del Milan in un supermercato, spinti dalla bulimia, hanno acquistato prodotti a tutto spiano senza avere un'idea di un menù, ed è quello che sta succedendo. A meno che il menù non sia cambiato, Maurizio, con l'arrivo di Bonucci. Mi sembra tutto un po' c'è un mercato prima e uno dopo. E allora che facciamo, Maurizio? Andiamo via Montella? Anche se è difficile, bisognerebbe cercare di trovare una soluzione sostituendo Montella finché c'è la possibilità. Dopo diventa troppo tardi oppure è già troppo tardi. Questa è la mia idea. Mandiamo via Montella, prendiamo chi? Cioè, no, però secondo me sarebbe una stagione buttata. Però il modo in cui il Milan va sotto a Roma e oggi a Marassi deve essere analizzato, perché non è tanto la questione della sconfitta che può capitare. Ma oggi il Milan ha fatto una partita pessima, ha evidenziato tutti i limiti e ha perso, esattamente come ha fatto una partita pessima l'Inter, che l'aveva fatta anche a Bologna, poi cambia il risultato. Ma diciamo un'analisi sul fatto che stiano emergendo certi limiti, secondo me è un'analisi che accomuna le due milanesi. Evidentemente Montella sta facendo fatica a far fare quel passettino in su. Allora, però non dimentichiamo che sono tante. Ma ascolta, ma non dimentichiamo che è una squadra tu. Gio, ma non dimentichiamo che è una squadra nuova per 9 undicesimi, 10 undicesimi, 8 undicesimi. Cioè, non è facile, lo diciamo all'inizio della stagione. Però lavora da inizio luglio. Nella gran parte lavora da inizio luglio. Non si è mai vista una squadra così nuova affrontare un campionato. Gli diamo un po' di tempo oppure no? Aspetta che intanto c'è Spalletti a Premium, lo sentiamo? Il fatto di poter attaccare più la profondità è quando poi te lo crei quello spazio lì. Per cui qualche volta venirla a toccare più basso, a chiamar fuori poi un tuo marcatore per poter avere la possibilità di crearci lo spazio è una cosa che lui deve sforzarsi di fare. Poi noi dobbiamo dargli qualche palla improvvisa in più, perché lui è proprio in queste qualità dentro l'area di rigore, anche quando non è così sistemata e così ordinata la cosa, dentro c'è lui, per cui bisogna fidarsi delle sue qualità e giocarcela. Questo è Spalletti sui Icardi, poi magari recuperiamo anche qualche altro passaggio. Siamo qui fino alle 19. Icardi oggi protagonista di un recupero di 80 metri per andare a salvare una grandissima palla gol in contropiede per il Genoa. E questo per tutti quelli tifosi, soprattutto dell'Inter, che lo ritengono ancora inadatto a una grande squadra. Qualche messaggio: Fassone un dirigente, non un tifoso qualsiasi, dunque dovrebbe parlare a freddo e non a caldo. E poi ancora, Bonucci non ha qualche responsabilità sulla mancanza di leadership? Secondo me sì, perché non si è leader solo a parole. I punti si contano e non si pesano. L'Inter 5 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte. Un albero cresce se ha radici solide. Però i punti si pesano anche, amico mio, perché dopo la sosta c'è il Milan e poi c'è il Napoli, e insomma quando l'asticella si alza è lì che la risposta ci deve essere. E poi ancora testa a testa fino a marzo, Napoli-Juve, Allegri a tanto ricambio. Allora, del testa a testa Napoli-Juve parliamo adesso, perché abbiamo visto ieri le due padrone del campionato. 800-24-00-24, arriva anche più Luigi Pardo, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. La Juve mi ha 36 vittorie di campionato consecutive e noi veniamo da un secondo e un terzo posto. Quindi c'è una squadra che è arrivata fra noi e la Juve l'anno scorso e ci sono due squadre che durante l'estate hanno fatto fuoco e fiamme e che penso siano quasi sicure di essere loro l'antagonista della Juve. E poi noi pensiamo a noi, io non voglio essere l'antagonista di nessuno, anzi voglio essere l'antagonista di tutti, di tutte le altre 19. Siamo consapevoli che quest'anno possiamo fare grandi cose. Queste partite è importante fare risultati a tutti i costi e cercheremo di ora di analizzare gli errori che abbiamo fatto e di migliorare. Il Napoli sta giocando un calcio importante, sta facendo risultati, che poi è la cosa che conta di più alla fine. Nell'albo ci rimane quelli che vincano, no? Quelli che arrivano secondi e arrivano terzi. Sono preoccupato perché sono tutti d'accordo che la Juventus stasera ha giocato bene, e invece sono molto più sereno quando, non sono quando in tanti non sono d'accordo. Juve e Napoli provano a scappare? No, il campionato è ancora lungo, mancano tantissime partite. Se ricordiamo quello che abbiamo fatto noi due anni fa, dobbiamo stare tranquilli perché mancano veramente tante partite. Allora, sono straordinarie le risposte, chi dice no, mancano 32 partite, Juve-Napoli, ce ne sono tante altre, l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, il Torino, il Benevento, il Verona, tutte in corsa per una cosa che sappiamo più o meno da quest'estate, che sarà un duello tra Juventus e Napoli, lo dicono i numeri. Non solo il punteggio pieno, che tra l'altro per il Napoli rappresenta il record storico, perché non aveva mai cominciato con 6 vittorie consecutive, lo dicono la quantità di gol impressionante che stanno segnando e la continuità con cui si esprimono anche in un momento in cui entrambe non sono al 100%. E adesso ne parliamo. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Abbiamo pareggiato, ciao, la schedina, ti sei salvato. Ah, ancora lì, così la chiudiamo subito. Ancora lì, sì. Ma ci hai salvato tu, Pardo. Cioè, terzo le ultime. Sei striscia negativa da Natale. Ha ragione, mi sono salvato io questa domenica. Vabbè, comunque. Sei striscia negativa da Natale. Mi sono salvato io questa domenica. Saluto subito due amici di questa trasmissione, uno da Torino, sponda Juve, uno da Napoli, sponda Napoli, che quest'estate questa settimana si è misurato in uno spericolato paragone tra Sarri e Sacchi sul Corriere dello Sport. Allora, Massimo Zampini e Maurizio De Giovanni, ciao a tutti, ciao, e due. Ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Chi è che mi convince che non è un duello tra Juve e Napoli? Dai, Pier, comincia tu. Ma come fai a convincere? No, senti, senta, se ti convince che non è un duello fra Juve e Napoli. Ma no, ma io non ho argomenti, che ci raccontiamo le favole. È un duello fra Juve e Napoli. Che deve essere? Juve e Napoli, anche se credo che la Roma sia stata un po' sottovalutata dall'inizio e secondo me ha una rosa importante. E se l'Inter continua a vincere partite giocando male, magari poi quando migliorerà, se migliorerà, potrà essere competitiva. Però quella credo che sarà la lotta per il terzo posto. Il Napoli-Juve mi sembra invece la lotta per il Massimo? Ma oggi sembra così e inizio campionato diciamo così, ma non mi affiderei alla classifica, perché basterebbe, per fare un esempio, che la Juve pareggiasse domenica a Bergamo, che non mi sembra una cosa impossibile, e magari ci troviamo secondi o pari merito all'Inter. Nel senso, non mi infiderei alla classifica. È chiaro, Juve e Napoli, essendo quelle che l'anno scorso hanno finito meglio, perché gli ultimi 2-3 mesi sono state le migliori, sono rimaste probabilmente le più competitive, rimangono, hanno vinto le prime 6, sembra così. Però sono d'accordo con Pier, io l'ho detto all'inizio campionato, secondo me la Roma ha venduto 2-3 pezzi grossi, ma li ha sostituiti benino, poi bisogna vedere se Di Francesco è pronto. E l'Inter ha ragione, Pier, anche qua, cioè sì. L'Inter non sta giocando benissimo, ma sta a 2 punti di distanza anche là, magari domenica dopo 7 partite no, te la ritrovi in Italia, ma magari sta anche sopra, c'è Benevento-Inter e c'è Atalanta-Juve, siamo di fronte però ragazzi, siamo di fronte al secondo campionato consecutivo che sta in piedi, che sta attaccato con lo Scotia, perché tra parte destra e parte sinistra della classifica non c'è una linea, non c'è una linea, ma c'è una voragine. E allora di che stiamo parlando? Aspetta che c'è Maurizio De Giovanni. Maurizio, sì, io vorrei dire che mancano 32 partite, che sono tutte in corsa, che scherzi a parte, io credo che sia sottovalutato il discorso dell'Inter non alle coppe. Guardate che non avere le coppe implica una possibilità di rotazioni e quindi di mantenimento dei titolari, 7 giorni di tempo per preparare le partite e il minor rischio di infortuni e di cali di forma. Noi purtroppo il discorso di Milik possiamo parlarne con amaro realismo, che sinceramente costituiscono una chance importante. Sì, Maurizio, L'Inter continua a rimanere attaccata un po' al treno, sì, ma è la verità. Non ha la qualità del Napoli e della Juventus. Dai, e poi c'è che un altro discorso importante da fare. Cioè, qui le piccole non tolgono punti alle grandi, ed è un discorso che alla lunga incide molto, perché rende innanzitutto pesantissimi gli scontri diretti. Quindi senza scontri diretti fatti non penso si possa mai parlare prima. E poi perché porta sul tavolo l'incomprensibilità di un calendario così fitto per tenere un campionato a 20 squadre quando le ultime in classifica sono veramente... Fai tu alla battaglia del presidente, no? No, non si è mai detto una cosa del genere. Però penso di poter dire che effettivamente vedere le ultime 4-5 in classifica giocare contro le altre è veramente mortificante. Sì, questo è vero. Succede così, succede anche altrove, perché così non ci diciamo che il Benevento, il Verona ce li abbiamo solo noi in questo momento. Allora, a proposito di Milik, il Napoli ufficialmente ha comunicato che c'è la possibilità di un intervento chirurgico, domani sarà valutato a Roma Villa Stuart dal professor Mariani. Che sfiga, però insomma ci sono notizie che circolano di rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, e del Napoli che avrebbe già detto al Chievo che a gennaio inglese dovrà andare agli ordini di Sarri, perché evidentemente lo stop di Milik sarà abbastanza lungo. Ora, una partita ogni 3 giorni, gennaio è un'era geologica. Certo. Mi dite che effetto vi ha fatto la Juve ieri sera? Io vi dico la mia, al di là della vittoria rotonda meritatissima del Torino, che non è mai stato in partita nemmeno 11 contro 11, io ho l'impressione che un paio di dubbi Allegri si riporti dietro dopo aver visto anche ieri sera la Juve ha cominciato a correre, sì, ma gioca meglio poi, senza Higuain, corre di più e gioca meglio senza Higuain, no? La Juve ha fatto un turnover in questa settimana mostruoso e continuerà a farlo. Io credo che la differenza tra la Juve e il Napoli, soprattutto dovesse perdere Mertens, potrebbe essere proprio questa, nella capacità e nella possibilità di fare un turnover ancora più grande. Il Napoli è migliorato molto da questo punto di vista, proprio nell'estate della cessione di Higuain ha rafforzato e ha reso molto più profonda la rosa. Sarri non ce l'aveva tanto questo tipo di, diciamo, di mentalità, ma sta cominciando a farlo e a farlo bene. Qualche volta magari non sbaglia, ma comunque penso a Mertens in Ucraina, però comunque è la strada giusta, e Allegri lo fa con una scientificità incredibile. Cioè ieri c'erano 4 superstiti della formazione titolare contro la Fiorentina. Poi secondo me la partita di ieri se lo può permettere, è finita sull'espulsione di Baselli. Dell'atteggiamento di Gnaio, però Pierluigi, adesso sul Napoli, mi rispondete se oggi la Juve gioca meglio in questo momento senza Higuain? Ma è estetica e pratica, dai. Juventus gioca bene, gioca male, Juventus gioca bene, hai colpi di classe, hai giocatori che risolvono le partite, la creatività che manca all'Inter, a tutto, quindi gioca bene, gioca male, mi sembra un sofismo. Io penso che la Juve sia paradossalmente, perché sembra veramente strano quello che sto per dire, un po' sottovalutata in generale, nel senso i 6 scudetti, è sempre considerata la favorita, quindi non si può dire quello che ho detto, però quando si parla di bel gioco del Napoli, e sicuramente è vero, quando si parla di solidità di altre squadre, di potenzialità, cioè si dimentica che comunque la Juve, che ha perso 2 giocatori importantissimi, perché questo non va dimenticato e alla lunga in qualche modo risulterà, però la Juve ha una serie di alternative, quando davanti tu puoi avere Bernardeschi e Douglas Costa che entrano al posto di dei titolari, oppure appunto tieni Higuain in panchina e il tuo centravanti di riserva è Mandzukic. Secondo me è importante, e il centrocampo in questo momento, anche questo secondo me è sottovalutato. Tu l'anno scorso a centrocampo come cambi avevi sostanzialmente Rincon e Lemina, buoni giocatori, ottimi, ma cambi nel vero senso della parola. Io Matuidi e teniamoci cauti il Bentancur, teniamoci molto cauti, quest'anno è qualcosa di meglio rispetto insomma, all'anno scorso, mi sembra scorso, che nell'insieme sì. Ci abbia tantissimi attrezzi. Il problema è un po' in difesa, perché anche Övedes non sta bene, Vesciglio è rotto. E là alla lunga, soprattutto in Champions, si potrebbe pagare. Sì, però a me ha fatto effetto. Io adesso capisco che voi prendete la tangenziale, fate il giro. A me ha fatto effetto ieri vedere Higuain in panchina. Non perché non possa andare in panchina Higuain, ma ascoltando Allegri in questi giorni, il suo richiamo che non deve piangersi addosso, qualche sferzata dopo la carota, anche un po' di bastone, vederlo fuori per scelta tecnica, come ha detto Marotta, qualche effetto me l'ha fatto. È come il presunto caso Hamsik a Napoli. Cioè, sono cose normali, è chiaro che Higuain in questo momento non sia in una grande condizione, è indiscutibile, però cioè, in una rosa così profonda con un calendario così pieno, che Higuain possa andare in panchina è abbastanza normale. Fisiologico. Magari sì. La cosa strana, se vuoi, è che sia andato in panchina contro il Torino, che sulla carta, non c'è altro che per un discorso, diciamo, di adrenalina da derby, deve essere considerata una partita ancora più di cartello rispetto a Juve Fiorentina. Ma insomma, veramente non ci vedo proprio niente di male. No, io dopo, ascolta, dopo il traffico, io vi butto già lì un tema, soprattutto per Maurizio Giovanni. Allora, infortunio di Milik, può sembrare cinico ragionarci sopra adesso, però è evidente che qualcosa sposta, perché c'era l'alternativa, adesso non c'è più, si torna ai tre piccoletti. Cosa cambia questo? Perché è importante in prospettiva, corsa, campionato, del Champions, grande duello, eccetera. Del grande duello, 800-24-0024, un minuto di traffico, torniamo, Pierluigi Pardo, Massimo Zampini, Maurizio Giovanni. Tutti convocati. Convocati. Penso che la squadra ha fatto veramente ottima gara, concedendo poco e niente, soprattutto i primi 3-4 minuti, ma poi ha giocato come l'abbiamo preparato, creando anche in tante situazioni dove potevamo fare gol, abbiamo tenuto bene, concedendo poco. Dispiace molto perdere questo modo con un calcio angolo 2 minuti da fine. Grande rammarico, un periodo che veramente gira tutto storto, però bisogna essere duri, guardare bene le prestazioni e cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Questo è Juric che sta parlando a Premium dopo la delusione della sconfitta del Genoa a San Siro contro l'Inter. Genoa 2 punti nelle prime 6 giornate, credo il peggior inizio dell'ultimo quarto di secolo in Serie A. Anche se il gioco dice qualcosa di diverso, e anche oggi il Genoa non avrebbe certamente meritato di perdere. Scrive un amico al 349-238-6666: lo dicevo già ad agosto, perché cedere Pavoletti e Zapata? È stato fatto con l'avallo di Sarri, potete rispondere per favore? Allora Maurizio De Giovanni, così ripartiamo dalla domanda di prima, cioè che cosa sposta l'infortunio di Milik? Guarda, l'infortunio di Milik pone 2 ordini di problemi. Il primo è che in rosa non c'è un centravanti con quelle caratteristiche, un centravanti di peso, un centravanti in grado di colpire di testa. Quindi quando si pone il problema nell'ultimo quarto d'ora, nell'ultima ventina di minuti, di mettere a posto una partita, e questo a Napoli è successo frequentemente in questo inizio di stagione, viene a mancare l'elemento da inserire per passare al 4-2-3-1, per esempio, quindi a creare un'alternativa di gioco. Il secondo ordine di problema, ben più grave, è che Napoli non ha proprio in rosa una prima punta da alternare a Mertens. Questo è una cosa abbastanza grave. L'ascoltatore che scrive ha ragione. D'altra parte bisogna anche capire che un Pavoletti, lo Zapata, contrariamente alla Juventus, in cui diciamo un certo tipo di tenuta economica propone la possibilità di tenere ben pagati giocatori di seconda e terza, se lo può permettere il Napoli no. Linea, nel Napoli è più difficile dire a uno Zapata: guarda, rimani e fai 3 partite. 4 partite in una stagione. Ma io però credo, perdonatemi, Sarri poco ha portato alle rotazioni. Ecco, credo che Sarri non si sia strappato i capelli di testa, no, Pier? Zapata secondo me è sempre stato un po' sottovalutato. Sì, è un giocatore che ha sempre segnato poco, ma perché giocava poco. Se poi andare a guardare le medie realizzative in termini di minuti, è uno che ha sempre fatto tanto. È un po' quello che dicevo prima, secondo me il punto. C'è meno abitudine sicuramente da parte del Napoli di Sarri e da parte di Sarri spesso a fare rotazioni. Sicuramente oggi col senno di poi, certo, oggi siamo bravi tutti, no? Era sicuramente una situazione di rischio, cioè che il Napoli sia un po' corto lì davanti è evidente. E mo che famo, Pierluigi, adesso che Milik è fuori, c'è chi propone di andare a prendere Pelé in Cina, ma sempre a gennaio. È lo stesso discorso, non vorrei portare figa, è lo stesso discorso della Liga dell'Inter. L'Inter è appesa, lo sappiamo tutti, e là Spalletti tutte le sere va a dormire pregando che non succede niente, perché è chiaro che non c'è profondità della rosa in quel settore lì. E questo è un infortunio che può pesare, è inutile girarci attorno, perché sarei ipocrita a dire il contrario dopo che per settimane ho detto che Napoli quest'anno secondo me fa grandi cose se riesce a ruotare 2 tipi di assetto offensivo. Quindi Adesso si torna stabilmente alla formula dei tre nanetti. Ma quella è la formula base, diciamo che è il piano B. Che salta il piano B. Più il piano B. All'inizio di questa stagione era il piano A. Adesso, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, quando si è fatto male ad ottobre, il Napoli non perde un titolare. No, appunto, il Napoli perde la riserva, è gravissima come perdita, ma perde una riserva. Ma rimane, scusatemi, rimane il fatto che con tre partite alla settimana, di qui a dicembre, sono 25 partite che non può giocare solo Mertens, questo è il punto. Allora, nel momento in cui per forza di cose Mertens andrà ruotato, se non altro per consentirgli di mantenere un decente stato di forma, adesso il Napoli non ha nessuno da mettere in quel ruolo. Quindi deve cambiare, diciamo, sensibilmente la disposizione tattica del proprio attacco. Questa è una cosa abbastanza. Oppure chiara. Affidarsi a San Gennaro, che nessuno si faccia male, che credo sia la via principale, perché cambiare domani, toccare San Gennaro è difficile. Dei, vero? Certo. Aspetta, sì, che... esatto. Allora, saluto Maurizio De Giovanni, che ringrazio. Grazie, Maurizio. Ciao, Maurizio. Volevo chiudere invece con Massimo Zampini. Abbiamo ancora due o tre minuti per capire invece come si approccia a quella partita di mercoledì in Champions League, che improvvisamente è diventata una partita importante. Noi due paroline gliele abbiamo dette venerdì al trofeo qua, carissimo Massimo, te l'avevo promesso, ma non so se basterà. È diventata una partita decisiva. Ora poi, pensandoci a freddo, non è successo nulla di grave, se non che lo Sporting ha vinto fuori casa, complicando un po' il girone. Per il resto la Juve, al di là della nettezza del risultato, ha perso a Barcellona, come era ampiamente nelle cose, quindi va tutto bene. Se battiamo l'Olympiacos e lo Sporting perde a Barcellona, ritorniamo alla classifica normale. Però ecco, se per caso le cose non andassero così, sarebbe preoccupante. Quindi secondo me, Giovanni, quando tu anche dici giustamente di Higuain quello che vuoi, secondo me ha ragionato anche su mercoledì. Ma gioca mercoledì Higuain, sì. Ha ragione anche Pier Allegri, uno che forse fin troppo addirittura gestisce, ma è un maestro secondo me nel gestire energie, forze, anche durante la partita. Quindi dobbiamo immaginare di trovarcelo titolare. È una formula chimica, sì. È una formula chimica che poi, sì, per carità, delle volte porta. Vi ricordate le polemiche l'anno scorso dopo l'intervento a proposito di Higuain, no? Sì, però era l'inizio, Pier, era l'inizio. Doveva inserirlo dentro un meccanismo. No, da lì in poi. Io ho guardato oggi le statistiche. Posto che all'inizio Higuain aveva fatto qualche panchina, l'anno scorso Higuain, su 55 partite in cui è stato disponibile, ha giocato titolare 50 volte. Sì, ma, no, ma mi sembra che sulla Juve ci sia la caccia al difetto. La caccia al piccolo vizio che in realtà non vedo. Ragazzi, non c'è. Secondo me la verità, mi rendo conto che dirlo oggi ovviamente è forte, è che l'infortunio di Milik, io sono d'accordo con quello che dice Maurizio, l'infortunio di Milik è vero che non è il piano A ma è il piano B, cioè è la soluzione in questo momento. In questo momento si è fatto male un panchinaro di lusso, non si è fatto male un fenomeno come Mertens, titolarissimo. Però è chiaro che l'infortunio di Milik rischia di spostare molto gli equilibri. Il Napoli, con la forza del gioco, che indubbiamente c'è, perché il passo avanti rispetto all'anno fa è enorme, riuscirà a sopperire a tutto questo, è evidente. Però 55 partite, sempre con lo stesso tipo di affetto, con lo stesso tipo ti devi affidare a un ottimo preparatore atletico e a San Gennaro. Vi devo fermare perché c'è il GR. Saluto Pier, che ritroviamo domani. Ciao Pier. Sì, ciao Pier. Ragazzi, ciao. Saluto anche Massimo Zampini. Ciao Massimo. Ciao. Alla prossima. 800240024. Dopo il GR abbiamo ancora un'ora. Parliamo ancora di calcio, parliamo di Dybala, con chi l'ha allenato, e parliamo ovviamente di MotoGP e del mondiale di ciclismo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferlo! Tutti convocati. Beh, deluso la prestazione, da capire, da analizzare come mai è successo. Quindi siamo stati al di sotto su tutti i punti di vista, e uno dei motivi potrebbe essere che la quinta per alcuni è la quinta partita consecutiva ogni tre giorni, e energie mentali sicuramente possono venire a mancare. Quando vieni da delle stagioni dove non hai fatto bene, poi sì, tu puoi mettere il periodo che ma il timore di quello che è la realtà te ce l'hai sempre lì dietro che ti soffia sul collo, per cui riuscire poi a creare una mentalità forte diventa importante. Napoli e Juventus ce l'hanno, ma secondo me ce l'ha anche la Roma, secondo me ce l'ha la Lazio, perché sono squadre forti. Noi dobbiamo accorciare nei loro confronti che c'è un po' di differenza secondo me, ma soprattutto in considerazione da dove veniamo, ecco. Allora, questi erano Montella e Spalletti in quella che secondo me è Milano, la notizia di questa domenica, e cioè, esatto, Milano che esce credo ridimensionata da questa domenica. Il Milan certamente, ne abbiamo anche letto, ve le rileggo in sintesi le parole di Fassone, che dopo la sconfitta Marassi contro la Sampdoria ha detto: siamo più forti di una squadra come questa, riferendosi alla Sampdoria. Queste sconfitte non devono essere routine, non siamo contenti dell'atteggiamento e ci aspettiamo che cambi subito. Parole che avranno fatto certamente fischiare le orecchie a Montella. Abbiamo sentito anche Spalletti dire: c'è un gap, ma lo stiamo riducendo, sì, con Napoli e Juventus. Io però credo si riferisse alla mentalità, però secondo attenzione. Me il gap rimane ancora molto importante. Mi leggi la classifica, domani. Classifica che dice: Juventus e Napoli 18 punti, Inter 16 punti, uh-huh, e poi c'è la Lazio a 13, Roma e Milan 12, la Roma ha una partita in meno, virtualmente potrebbe essere a 15 punti, e poi via via mi tutte le altre. Mi sembra che la classifica parli da sola, no? Cioè la situazione di Milan e Inter è profondamente diversa, secondo me. Perché l'Inter comunque è una squadra work in progress, che ha dei limiti, ha delle pecche, le abbiamo analizzate, le abbiamo detti, però la classifica è lì che parla. Per quanto riguarda il Milan, la classifica comincia a essere preoccupante. Cioè, preoccupante magari no. È chiaro che il Milan è una cosa molto più difficile da mettere insieme per le ragioni che abbiamo analizzato, tanti giocatori nuovi, eccetera, eccetera. Però la situazione delle due, secondo me, non va di pari passo. No, però io le accomuno perché era una partenza di stagione per motivi diversi in cui molto viaggia sul filo dell'entusiasmo. Attenzione, perché Milano è una piazza particolare. Anche due anni fa l'Inter partì con 5 vittorie consecutive, ma appena spenta la fiammella dell'entusiasmo fu poi una delle stagioni peggiori. 800 24 00 24, seguiamo Sassuolo Bologna, 11 minuti 30 secondi, 0-0 risultato. Poi questa sera c'è Fiorentina Atalanta. Seguiamo anche Milano Venezia, Supercoppa italiana di basket, 16-7 per Milano, siamo a metà del primo periodo. Però vi voglio qui. 800 24 00 24, Mauro d'Alessandria. Mauro, buonasera, grazie della convocazione. Dai, vi chiedo due cose velocissime. Uno, Rodriguez e Kessié, di partite ne hanno già giocate tante, a me sembrano sopravvalutati. Domanda numero due, i due punti fermi dell'anno scorso erano Bonaventura e Suso, che giocano larghi. Se ho la difesa 3, uno finisce a fare la seconda punta che non la sa fare e l'altro finisce in panchina o a fare l'interno come oggi. Sì, io non capisco questa questa susodipendenza che Montella si è messo in testa, sinceramente non la capisco. Che sì, non è sopravvalutato. Rodriguez non lo so, vediamo. Sì, anche se che sì, non ha una costanza, sì, in questo, ragazzi, momento. Oggi è stato tra i peggiori. Anche lì ha perso una vagonata di palloni a centrocampo. Ci sono partite in cui è devastante. Diamogli un attimo a questo giocatore qui, che alla fine è giovane, viene dall'Atalanta. Diamogli un attimo di tregua. È chiaro che a Milano il tempo è denaro, questo è quasi un assioma. Però anche su questo giocatore andiamoci piano con i giudizi definitivi. Per quanto riguarda l'attacco sono d'accordo, perché né Bonaventura né Suso secondo me hanno le caratteristiche. Ma neanche Calhanoglu. Neanche Calhanoglu. Neanche Calhanoglu, quindi che facciamo? E quindi facciamo quindi che si fa una bella riflessione. Si fa una bella riflessione. Cioè, che scrive: mettere sullo stesso piano una squadra che con 300 milioni spesi ha già perso due partite su due serie, a pari di 300 milioni, non sono 300, però insomma, con una che ha con un mercato ridotto ha fatto 16 punti su 18, è comico, Paolo. E invece lo facciamo perché poi se mettiamo insieme i soldi che ha speso l'anno scorso l'Inter, sì, con quelli di quest'anno, più o meno arriviamo oltre quei 200 milioni lì. Gianni da Firenze, Gianni. Sì, buonasera e complimenti. Grazie a te. Complimenti a tutti voi. Io volevo parlare del dibattito, no, che parlavi te di Higuain, della panchina di Higuain, ma per me è giusta, perché, ma ti spiego anche perché, a parte che appare fuori forma, mi sembra anche a vederlo, no? Insomma, parecchio fuori forma. E poi Higuain non è mai stato decisivo. Con Napoli mai, non ha fatto vincere niente, con l'Argentina non ha fatto vincere niente, con Real lo scartavano. Non è mai stato decisivo, è sempre stato sopravvalutato. Parecchio sopravvalutato, secondo me. Non no, io vedere decisivo a quale livello, preso ragazzi, sì, è un po' larga. Bisogna vedere decisivo a quale livello. Cioè, ci sono numeri nei confronti con le big europee che sono impietosi. Certo, che abbiamo letto nelle settimane scorse, e questo è probabilmente un'ombra che resterà in assoluto sulla carriera. Giovanni, credo sia d'accordo però in anche Italia. Tu. Credo sia d'accordo anche tu sul fatto che bisogna fare la tara a questo. No? In Italia è decisivo, perché un giocatore che ti segna 25 gol è decisivo, punto e basta. Se stiamo a parlare del peso specifico di Higuain in alcune singole grandi partite, finale Champions League, finale mondiale, il dibattito si può aprire. E allora si può aprire, certamente. Andrea da Forlì, Andrea. Sì, pronto? Vai. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo fare un po' il pelo a Spalletti sulla posizione in campo di Borja Valero. Borja Valero a Firenze giocava io come chiamo io, un tuttocampista, giocava tutto campo, un centrocampista a tutto fare. Qui nell'Inter è segregato a una zona di campo davanti alla difesa che secondo me gli tarpa assolutamente le ali. E con Borja Valero abbiamo trovato un altro rallentatore di gioco lì, con Medel. Oggi scivolava. Sì, no, il paragone con Medel non ci sta, no, perché stiamo parlando di due giocatori diversi col pallone tra i piedi. No, così la sagra dei passaggi orizzontali ci è entrato anche Oggi l'Inter ci metteva delle ore a portare il pallone dalla sua tre quarti alla tre quarti. Non penso sia responsabilità di Borja Valero. Borja Valero è un playmaker. È responsabilità di Spalletti che lo mette in quella Probabilmente servirebbe un centrocampo a tre. Questo sta dicendo, credo, Andrea. Sì, provo a tradurlo. Sì, ok, un centrocampo a tre va bene, ma Borja Valero è un eccellente playmaker. Ma poi soprattutto il problema è che l'Inter ha un esterno meraviglioso. Che Perisic ne ha un altro preso, Cancelo, che prima o poi sarà disponibile al posto di Candreva. Ne ha un altro Candreva. Quel gioco lì è il 4-2-3-1. A Firenze giocava Badelli davanti alla difesa insieme a Vecino, e Borja Valero giocava. Ma l'Inter ne giocano due, però, Andrea. Lo so, quindi anche Borja Valero deve stare un po' più dietro. Non li facciamo giocare nel suo ruolo, allora niente, ci teniamo Medele. No, Medele è partito. se ti può consolare, so, se no. Mi pare di aver capito, non fossi un estimatore di Medele. Grazie comunque, Andrea. 800-24-0024, 17 minuti 0-0 Sassuolo-Bologna. 2:30 alla fine del primo periodo, Supercoppa Italiana di Basket a Forlì, 21 Armani Milano, 14 Umana Reyer Venezia. Noi adesso ci fermiamo per il traffico, poi parliamo con l'uomo che ha avuto la fortuna, unico in Italia, di allenare insieme Belotti e Dybala. Lo sai che ce n'è uno? Ce n'è uno. Ce l'abbiamo con noi dopo il traffico. I love this game. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, intanto saluto Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, c'è Roberta Fresani in regia, prima c'era Gianmarco Ferronato. 24-15 per Milano su Venezia, un minuto dalla fine del primo periodo della Supercoppa di Basket, 0-0 a Reggio Emilia tra Sassuolo e Bologna quando siamo al 19° minuto del primo tempo. Poi questa sera c'è ancora Fiorentina-Atalanta per chiudere la sesta giornata. Abbiamo con noi l'unico allenatore che ha avuto la fortuna di allenare insieme Belotti e Dybala. Perché ce n'è uno, l'ha fatto senza dover spendere un miliardo di euro sul mercato. Beppe Iachini, ciao, buon pomeriggio. Ciao mister. Ciao, ti senti un po' privilegiato, sì. Ma mi sentirei privilegiato ad averli ora, magari. Bravo, lo stavo dicendo ovviamente, io. Quando erano con me, insomma, erano ancora molto giovani, seppur facevano già intravedere ovviamente delle doti sicuramente giuste per poter poter fare poi una carriera importante, ma erano molto giovani, avevano ancora, ovviamente erano le prime esperienze, soprattutto però si evidenziava la loro voglia di voler crescere, di volersi migliorare, ragazzi a posto sotto l'aspetto anche umano e ovviamente sotto l'aspetto tecnico, con dei margini di crescita importanti. Sì, ma... lui ha allenato due bambini. Non sì, ha allenato i giocatori bambini, che sono adesso, abbastanza prodigio, perché comunque, beh, soprattutto certo, Dybala, quel piede lì Dybala comunque ce l'aveva già allora. È chiaro che adesso è un altro film, un'altra storia, un'altra squadra, un altro contesto, Beppe. Ma ti stupisce, Beppe, questa esplosione di Dybala come cannoniere? Allora, l'anno scorso ha fatto 11 gol in campionato, 31 partite, 10. Quest'anno 10 in 6. No, non mi stupisce, anche perché io sono arrivato, quando sono arrivato, ovviamente al di là del fatto che, come abbiamo detto, molto giovani, ma diversi mi dicevano: guarda, Dybala è un giocatore che magari deve fare il trequartista, può fare il trequartista all'esterno di centrocampo. Io però sin da subito intravedevo in lui questa, avendo una un'ottima tecnica sul piano individuale, è chiaro che per me più vicino alla porta poteva girare, più poteva creare problemi agli avversari. Non a caso nella prima stagione ha giocato come sta giocando adesso, da seconda punta, e mentre nella stagione poi della Serie A ha giocato da attaccante proprio oggi, da prima punta. Perdonatemi, oggi che cosa sta diventando Dybala? No, è chiaro che con il tempo si sta, ecco, ulteriormente magari sta migliorando, magari sotto l'aspetto anche della fiducia, della personalità, della crescita, del sapere andare anche... fermavamo spesso terminati gli allenamenti per cercare, insomma, di andare a concludere in porta. Io dicevo sempre che un conto è tirare in porta, un conto è calciare in porta, perché mirare gli angoli, calciare in porta vuol dire mirare gli angoli, perché poi in Serie A, quando vai a giocare in Champions, vai a giocare in Serie A, trovi portieri più forti, ed è chiaro che diventa, essendo un addestramento tecnico importante, il fatto di dover andare a mirare gli angoli, non tirare tanto per tirare, ecco, quindi è un lavoro che poi con il tempo, con gli addestramenti, con anche, ripeto, con la fiducia, con la personalità che cresce sempre di più, è chiaro che sono cose che si migliorano. Però io ieri facevo questa riflessione vedendo il derby, soprattutto nel secondo tempo, in cui non c'era più partita assolutamente, e cioè che questo Dybala segna troppo per essere un numero 10. In campo teoricamente gioca da 10, perché ha davanti una prima punta, Higuain, ieri sera Mandzukic, non è un 9, quindi, e quindi facevo fatica a inquadrarlo. Beh, è una grande seconda punta. No, per carità, può essere grande, una grande seconda punta. Siamo tutti d'accordo, ma che cos'è? Ma lui per me potrebbe fare bene anche il centravanti, un po', se vogliamo, la Montella, no? Tanto per rendersi, tanto per essere chiari, Aguero, no? Giocatori con una, Ma se giocasse prima punta, quanti ne farebbe? Ne farebbe tanti anche lì, secondo me, perché poi è bravo anche a smarcarsi, è migliorato anche sotto questo aspetto, sicuramente nella difesa della palla, sa leggere le situazioni, ma lui fin dall'inizio piaceva molto andare a servire i compagni, a giocare per i compagni. La cosa che andava stimolata in lui è che infatti già nel secondo anno si trovava molto più a contatto della porta, fece 14-15 gol, se non ricordo male, al primo anno di Serie A, e quindi era proprio il fatto di andare a braccare la porta con più convinzione e andarla a cercare per se stesso, non tanto per favorire magari il compagno come uomo assist. Quindi sì, questo sta crescendo molto, e questo vuol dire che è sempre più alta la fiducia nei suoi mezzi, e si sente questa fiducia intorno a sé da parte di tutto l'ambiente, della società, dell'allenatore, e questo lui lo fa vedere sul campo. Senti Beppe, toglimi una curiosità: si dice sempre che questi grandi giocatori le cose più incredibili e memorabili le fanno in allenamento. Ora io vorrei sapere da te com'era Dybala in allenamento, seppur ragazzino, seppur anni fa, e qual è la sua attitudine all'allenamento? No, è un ragazzo straordinario, già durante la settimana, ho detto, già dai primi allenamenti mi aveva impressionato per questa sua capacità nell'uno contro uno, nell'andare a saltare il primo uomo, nell'andare a creare sempre situazioni magari importanti. Quello che doveva ancora di più convincersi era proprio questo fatto di andare a attaccare, a braccare la porta, attaccare la porta con più convinzione, perché con le sue doti tecniche era un ragazzo destinato, insomma, a poter fare sicuramente grandi cose anche sotto l'aspetto realizzato. organizzativo. Per quanto riguarda l'allenamento, basta dire che ogni volta che spesso durante la settimana, sia con lui che con Andrea, con Belotti e con altri ragazzi, ci fermavamo terminata la seduta di allenamento per andare a fare lavori specifici proprio per gli attaccanti, per quanto riguarda lo smarcamento, la difesa della palla, le mezze lune, i movimenti passanti, le conclusioni in porta da varie posizioni, e quindi ci fermavamo spesso proprio per far sì che capissero quello che un po' il campionato italiano richiedeva, la Serie A richiedeva, perché poi se ti smarchi con tempi sbagliati la porta la vedi poco, favorisci il difensore, se ti smarchi poi in maniera con postura sbagliata del corpo, ecco qua che ritardi poi la possibilità di andare a verticalizzare. Non era uno che si tirava indietro, insomma, no, ragazzo eccezionale, anzi quelle volte che magari ce n'era qualcosina meno per farlo recuperare, anche perché poi era molto giovane ancora, doveva anche strutturarsi, diciamo, a livello fisico, no? E è chiaro che anche lui stesso veniva a chiedere proprio allo staff di poter ancora rimanere per andare a fare ancora esercitazioni, quindi sotto questo aspetto un ragazzo già, ma tutti e due, sia lui che Andrea, ragazzi già vecchi, io li chiamo già nati vecchi nella testa, e questo li rende ancora più grandi. La famosa testa dei trentenni nel corpo di Beppe, credo che sia io che Giovanni Capuano sia io che Giovanni Capuano vogliamo chiederti una cosa, e tiriamo dentro anche Higuain. Insomma, il paragone con Messi è una butta giornalistica, è un giochetto giornalistico, eccetera, eccetera, è chiaro. Però attitudine di Dybala, e ci metto anche di Higuain, che è sotto esame in questo momento nelle grandi partite. Higuain sappiamo che, insomma, è nel pieno della carriera, mentre Dybala è ancora nella fase ascendente. Da questi giocatori ci si aspetta che risolvano grandi partite, che non sono quelle italiane con il Chievo, con tutto rispetto, con il Torino, ma altre gare, e tu sai a cosa mi riferisco. Certo, no, ma sicuramente, guarda, quello che manca un po', tra virgolette, che può mancare a Paolo è proprio l'esperienza di andare a fare certi tipi di partite, perché ovviamente nessuno nasce imparato, magari sarà successo, è successo sicuramente anche a grandissimi campioni, non a caso se parliamo di Messi, un grandissimo campione che segna regolarmente, che ha vinto palloni d'oro, però magari con la sua nazionale non riesce ad alzare un titolo, a vincere nulla, sicuramente non dipende solo da lui, però questa è la dimostrazione che magari Paolo è ancora molto giovane, con il tempo e l'esperienza si abituerà anche a giocare certe grandi partite, e quindi queste non saranno mai più la prima volta, ma saranno una consuetudine per lui, dovendole fare tutte degli anni e più di una, e questo farà sì che acquisirà anche sotto l'aspetto internazionale magari un'esperienza, una malizia che poi gli farà fare la differenza anche lì. Sì, è l'aspetto in cui deve crescere. Grazie Beppe Iacchini. Ciao Beppe. Prego, ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie Beppe Iacchini. Intanto 27 minuti 0-0 Sassuolo Bologna, e invece nel basket 32-21 per Milano quando mancano 7:45 alla fine del secondo periodo. Alessandro. Buonasera. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Ciao Ale. Allora, una domanda e una considerazione. Ero allo stadium ieri sera tra i fortunati tifosi juventini per quanto riguarda la vittoria della Juventus sul Torino. Ma siamo veramente sicuri che la forbice tra la Juve e le altre squadre si sia veramente ridotta? Perché secondo me non è così. Tu intendi il Napoli, la Roma, l'Inter, il Milan? Assolutamente. Insomma, quelle squadre lì. Ma alla luce dell'infortunio oggi di Milik e della panchina straordinaria che aveva ieri Massimiliano Allegri, non contando che ci sono fuori Ouedes, Khedira e Marchisio. E Decidio. Secondo me si stanno facendo delle considerazioni non corrette, perché nel momento in cui Allegri farà incominciare a correre la squadra, ieri sera sarà già visto qualcosa, cioè... Guarda, io credo che la partita di ieri sera resti negli occhi, ma sia anche un test che andrà rivalutato, perché evidentemente il Torino ha sbagliato completamente l'approccio alla partita, e qui si potrebbe aprire anche un altro ragionamento su quanto valga la pena caricarla di così tanti significati come fa spesso Mihajlovic, mandando forse fuori tensione una squadra che può reagire come ha reagito ieri sera. In assoluto io credo che il Napoli sia più vicino alla Juve di quanto non lo fosse l'anno scorso. Sì, questo sì. L'infortunio di Milik vediamo, perché l'infortunio di Milik è un brutto colpo, meno duro rispetto a quello di un anno fa, l'abbiamo detto, perché toglie una riserva e non un titolare, però è anche vero che da qui in poi fino a gennaio il Napoli rischia davvero di non avere alternative e alla lunga di logorarsi. Angelo. Beh, io volevo dire esattamente la stessa cosa. Sono un tifoso del Napoli e devo dire che il campionato è cominciato benissimo. Cioè, 3 delle 6 partite l'anno scorso non sarebbero finite a punteggio pieno per il Napoli. E poi Sarri quest'anno ha fatto un turnover che ci sognavamo, ha ruotato tutti i centrocampisti, ha fatto giocare Maximovic, ha fatto giocare Maggio, quindi stava girando tutto perfettamente. Credo che l'infortunio di Milik sia una mazzata che non era necessaria, insomma. Sì, io credo però che il turnover fosse anche fisiologico. Hai nominato giocatori a centrocampo, Maximovic dietro, che semplicemente hanno un anno di lavoro in più e in alcuni casi hanno anche un anno in più dal punto di vista anagrafico ed erano delle giovani promesse, penso a Rog, penso a Diawara, penso allo stesso Zielinski che ormai è praticamente da considerare un titolare di questo Napoli. Oggi Sarri deve fare un altro miracolo, inutile che ci giriamo intorno, forse vedremo qualche minuto in più di questo esterno molto promettente preso in estate sul mercato. Vedremo se in qualche modo sarà capace Sarri di adattare la situazione, Joe. Perché oggi c'è Mertens e nessun altro davanti. Sì, Joe, però certo. Lo dicevamo anche l'anno scorso. No, ma lo dicevamo anche l'anno scorso, però abbiamo detto anche per tutta l'estate come un valore aggiunto di questo Napoli sia nella conoscenza che Sarri ha dei backup, perché se ha un limite è stato l'anno scorso, era quello del turnover, della difficoltà di ruotare i giocatori, eccetera. Quest'anno li conosce bene, da Roga, tutti quelli che hai citato, lungo elenco, li conosce molto bene, dunque può sapere quando metterli, come metterli, in quale partite fidarsi, eccetera, eccetera. E questo è un valore aggiunto, secondo me, per il Napoli. Abbiamo il meteo, aggiornamento Sassuolo-Bologna 0-0, 32esimo minuto, partita che fin qui sta regalando zero emozioni. Emozioni sta regalando invece la partita tra Milano e Venezia, siamo alla finale di Supercoppa Italiana, 36-24, quando ci avviciniamo alla metà del secondo periodo. Invece tra un minuto noi parliamo dei motori, apriamo la pagina degli altri sport, parliamo del Gran Premio di Aragon, della straordinaria impresa di Valentino Rossi, che non ha vinto, è arrivato quinto, ne parliamo anche con un grandissimo dello sport italiano che nella sua vita professionale ha avuto molto a che misurarsi con gli infortuni e con il dolore. Tutti convocati. Tutti convocati. Marquez un'altra volta in casa sua, Marquez c'è e vince davanti a Daniel Pedrosa, alla Ducati di Jorge Lorenzo, poi Maverick Vignales quarto e applausi giustamente anche per Valentino Rossi che riesce a portare se stesso e la sua moto sul traguardo in quinta posizione. Io continuo, se sentite, a battere le mani. Una bella domenica per noi perché abbiamo non solo la vittoria sino che anche al campionato abbiamo fatto un piccolo step, un piccolo gap, dico piccolo perché sai che rimangono ancora 4 gare dove si può succedere di tutto e 16 punti sono più o meno, è meglio tenere 16 che niente, ma contento. Peccato perché abbiamo perso un bel po' di punti, però per quello che avevo ho fatto il massimo, sono partito, sono messo davanti, ho cercato di perdere il meno possibile, ma mano a mano che andavo avanti ho dovuto incominciare a spingere troppo presto con la gomma e l'ho finita. Ho portato a casa il massimo che potevamo, ma non è stato un granché. Allora, questo è quello che è successo oggi ad Aragon, 0-0 Sassuolo-Bologna, 37esimo, si avvicina invece Venezia-Milano, 37-31 quando siamo a 4:30 dalla fine del secondo periodo, stiamo parlando della finale di Supercoppa Italiana. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Roby. Ciao. Allora, ciao. Intanto rassicuriamo Marquez, i punti sono 16, di vantaggio su Dovizioso perché era un po' incerto, confuso, conti, ma . Ne sta vincendo così tanti in quest'ultimo periodo che magari può perdere un attimino di vista quella che è la classifica. Oh, Roberto Ungaro ci deve spiegare perché la Ducati sbagliata arriva terza, quella di Lorenzo, la Ducati giusta, quella di Dovizioso, arriva settima. Sento puzza di bruciato. caro Roberto. No, beh, tanto tornano le gomme un po' protagoniste di questa gara. Avete visto anche le Yamaha. Vabbè, Valentino non faceva testa, ha fatto il miracolo e giustamente bisogna parlarne. Però anche Vignales, avete visto, cioè non è riuscito a concretizzare e arrivare in fondo. Ducati, Lorenzo comunque si avvicina sempre di più, eh? Avete visto per quanto è rimasto davanti a dominare, e quindi si sta veramente, secondo me prima della fine della stagione il colpaccio potrebbe farlo, specie in una delle tre piste veloci dove andremo adesso per la trasferta transoceanica. E ci ha confermato Marquez, perché Marquez l'ha presa ancora con grande coraggio questa vittoria, se l'è conquistata a due mani, ha rischiato ancora, però ha dimostrato che lui è lì davanti. 16 punti diventano tanti. Sì. Dovizioso. Anche perché, perdonami, nelle ultime 6 ho messo in fila due numeri, 4 vittorie, un secondo posto, è caduto al Sachsenring, altrimenti saremmo già con la Clara abbassata probabilmente. Esattamente. Comunque, quando Dovizioso ha raggiunto la vetta del campionato, c'era solo quello stato di grazia, lo abbiamo sempre detto. È un momento eccezionale sia per Dovi che per la Ducati. Era difficile pensare a un campionato per loro. E questi sono i reali valori in campo. Poi non è mai detto, perché ripeto, in quelle tre gare tutto può succedere. Ducati torna a essere un po' avvantaggiata su quelle piste, qui era svantaggiata, era la pista di Honda questa, no? E quindi staremo a vedere per il gran finale, però secondo me il campionato inizia a prendere una direzione e sarà difficile, solo un suo errore può toglierlo dalla vittoria Marquez dal campionato, a mio avviso. Senti Roby, non trovi che Dovizioso sia tornato ad essere un po' troppo dovizioso? Mi spiego, al di fuori di questo giro di parole. Sai quando l'ho capito? Lo so. Era lì che doveva sorpassare Valentino e ha avuto un po' di inibizione, quasi un po' di riverenza, e non vorrei dire, ma quello è il dovizioso, come diciamo. È vero che non era a posto con le gomme, l'ho detto lo stesso, che ha dovuto, però il dovizioso che abbiamo sempre conosciuto è quello lì. Le vittorie di quest'anno sono state veramente non dico un miracolo, perché le ha conquistate davvero, ma è una forma strepitosa. Purtroppo non gli è venuto il braccino, è tornato a essere quel dovizioso che non mette il cuore oltre l'ostacolo, che non ci mette del suo quando ci sono dei problemi. Ma sulle gomme c'è stato un errore o dobbiamo semplicemente prendercela con la cattiva sorte? No, secondo me è più cattiva sorte che errore, perché quella era la scelta, prima di partire era la scelta giusta da fare. Poi purtroppo siamo ancora qui a parlare di gomme, di Michelin, perché tutto ruota attorno a loro, però quella è stata la scelta, non hanno fatto una scelta sbagliata, troppo azzardata secondo me. Però è un peccato vedere che un dovizioso che aveva raggiunto quella posizione deve. Adesso 16 punti sono tanti. Sì, sono tanti. Ci sono ancora 100 punti in ballo, perché ci sono 4 gare. Quindi, però diventa si allontana parecchio, secondo me, la vittoria del campionato. E poi Marquez è uno squalo. Ha sentito l'odore del sangue e ci si sta buttando. Grazie Roberto. Ciao Roby, un saluto. Ciao. Ciao. Alla prossima. Allora, io voglio salutare il signore degli anelli. Perdonatemi. Ci sto lavorando sugli anelli. Yuri Kekki, che ho letto, non mi ricordo su quale giornale, l'altro ieri, in un'intervista meravigliosa, a parlare di che cosa significa rientrare da gravi infortuni. Allora, vi regalo un paio di voci di Valentino Rossi oggi, intanto sulla sua soddisfazione di esserci stato, semplicemente. Naturalmente è molto di più la soddisfazione di esserci stato e comunque di avere guidato bene, essere partito in prima fila e poi aver fatto una gara al massimo dall'inizio a quasi alla fine. Una settimana fa erano più le possibilità di guardarla a casa, ecco. E poi ancora su forse quello che è il vero significato di questo recupero lampo, e cioè prepararsi meglio a quello che accadrà nelle prossime settimane. E adesso il lavoro continuerà forte, 2 settimane a casa, e voglio cercare di arrivare a Motegi, se non al 100%, comunque abbastanza in forma. Allora Iori, come si fa a rientrare dopo delle mazzate come quella di Valentino Rossi? La tua carriera è inutile che stiamo a ripercorrerla, perché gli italiani ce l'hanno scolpita nel cuore. Grazie. Beh, non è facile, però sai, un atleta di quel livello è chiamato a far questo ed è anche abituato. Io credo che un atleta ha delle caratteristiche abbastanza eccezionali nel vero significato, no? Della parola, fuori dal normale, perché altrimenti non riuscirebbe a fare queste cose che non dico sono miracolose. Io poi non vorrei offendere nessuna sensibilità religiosa, ma non credo ai miracoli. però sono davvero molto, molto difficili, molto complicate, ma sono possibili. Valentino ha fatto una cosa davvero eccezionale, ma possibile, e credo che questo sia una cosa da non sottovalutare, nel senso che non è un incosciente, non ha fatto una cosa azzardata, a mio parere. No, Iori. Una cosa complicata, ma certamente il risultato si vede, cioè non è fatto una garaccia, anzi, è arrivato qui, sono quindi piloti che non lo fanno in una però, carriera. Sì, esatto, quindi, però sì. Iori, questa è la differenza tra, diciamo così, anche se sono brutale, il comune mortale e lo sportivo professionista, no? Lo provi tu. Lo ha provato oggi Valentino Rossi, ma nel moto mondiale abbiamo un sacco di esempi. Me ne vengono in mente due a caso: Loris Capirossi che sale in moto in Ungheria con un braccio fratturato, lo tirano giù svenuto, lo operano il giorno dopo. Lorenzo che cade ad Assen il sabato, lo portano a Barcellona, lo operano la spalla, gli mettono una placca di titanio e corre il giorno dopo partendo dall'ultima fila, arriva ricordo quarto. Franco Baresi, menisco 7 giorni ai mondiali USA 94, Niki Lauda dopo l'incidente al Nürburgring che sale sulla Ferrari senza nemmeno vedere bene la pista con la testa che ci ricordiamo, ci hanno fatto anche un film. Insomma, questo sottolinea la differenza tra il comune mortale che si fa male e lo sportivo professionista che ha qualcosa, ha un fuoco dentro che il normale sportivo da corsa nel parco non ha. Sono d'accordo con te, con tutto quello che hai detto, ed è chiaramente, credo, la differenza, e questa differenza la fa molto la motivazione. Io magari dico una cosa che sarà assolutamente contestata da ricerche scientifiche o da medici, ma credo che davvero la motivazione forte ti possa aiutare anche a guarire prima e a migliorare la tua condizione fisica. Io non sono molto convinto, anche per l'esperienza che ho avuto, e la forte motivazione, la determinazione per raggiungere il risultato di un atleta quando ha un infortunio, chiaramente possibile, perché è vero, non parliamo di recupero straordinario di Valentino, ma Valentino non avrebbe potuto giocare alla finale di basket degli europei di poco tempo fa o di pochi giorni fa o giocare a calcio o fare una gara di ginnastica. Ha fatto una cosa, ripeto, difficile ma possibile, ma la motivazione per rientrare, per essere lì, come ha detto nell'intervista, è talmente forte che io sono convinto che riesca anche a migliorare proprio la questione fisica, il danno fisico. È un atleta, ripeto, è chiamato a questo. Io Valentino lo conosco da tanto tempo e credo che già da giovane, l'ho conosciuto, era un ragazzino, aveva delle caratteristiche fuori dal comune, assolutamente fuori dal comune, che vi rendono unici. Abbiamo un minuto di traffico, io mi tengo Iori Kekis, lui ha un minuto di pazienza. Piacere. Perché voglio chiedergli questa cosa, gliela chiedo e poi sentiremo la risposta, e cioè noi abbiamo sentito il professore che ha operato Valentino Rossi 25 giorni fa dire 30 giorni fermo e poi si vede. Immagino chi ti disse difficilmente tornerai a fare gli anelli a quel livello lì. Forse quelle parole lì sono l'inizio del fuoco sacro che vi invade nel momento dell'infortunio. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. È finito il primo tempo a Reggio Emilia 0-0 tra Sassuolo e Bologna. Sta finendo il primo tempo anche a Forlì tra Milano e Venezia, partita completamente riaperta 40-39. Finito in questo momento il primo periodo, Milano è stato avanti anche di una quindicina di punti, ma negli ultimi 5 minuti ha smesso semplicemente di segnare e Venezia si è rifatta sotto. Dunque 40-39 quando siamo a metà partita. Siamo con Iori Kekis, stiamo parlando dei grandi recuperi, di grandi atleti, di grandi campioni dopo gli infortuni. Cosa succede quando il medico che ti opera ti dice ti serve tanto tempo per rientrare oppure potresti non rientrare più? Succede che è difficile, è traumatico. A me è successo così dopo l'intervento al bicipite brachiale. Il professor Perugia, che mi era attaccato tutti i tendini che mi sono rotto, mi disse che non avrei più potuto continuare perché il tendine non poteva tenere certe sollecitazioni, ma io, come recita una bella poesia che dice: io sono padrone del mio destino, io sono capitano della mia anima, dissi no, deve finire in maniera diversa. E glielo dissi e mi disse: guarda, io non ti posso impedire di farlo, ma per me è impossibile. Ricordo che dopo la medaglia di bronzo, una delle prime telefonate fu proprio questo medico al quale devo tanto, che purtroppo non c'è più da qualche anno, era già anziano, e commosso mi disse: grazie Yuri per questa lezione, mi hai fatto capire che nella vita le cose che riteniamo impossibili possono trasformarsi in possibili. Quindi insomma, mi disse: grazie che l'hai attaccato meglio di quanto pensi. Però una cosa davvero molto importante, molto bella, perché ripeto, un luminare si mise in discussione. Quindi credo che davvero in alcuni momenti, soprattutto gli sportivi, e qui non voglio fare nell'eroe, nel Superman, cosa che non sono e non siamo, però davvero gli sportivi hanno la possibilità in alcuni momenti di alzare, no, quell'asticella dei limiti, sì, sì, che pensiamo di avere. Sono prove concrete che questo è possibile. Sai che su Rossi si è aperto anche un dibattito questa settimana, se fosse o no un bel esempio. Perché? Tornare. E beh, insomma, un dibattito che è comparso sulla Gazzetta dello Sport, che è il primo quotidiano sportivo italiano. Brutto, ma in che senso può essere un brutto esempio? Nel senso che bisogna poi spiegare, sai, come nelle pubblicità, non rifatelo a casa, no? Vabbè, ma non, voglio dire, ma chi sale su una moto da 400 cavalli a casa sua? Fatemi capire, eh? Difficile. No, ma vale anche per qualcuno che ha la sventura di rompersi il tendine, magari. Ma se c'è un bel esempio è questo, no? Ma se c'è un bel esempio è questo, sono quello di Yuri Checchi, di Valentino Rossi, di Niki Lauda, di Loris Capirossi, di Jorge Lorenzo. Posso andare avanti per un po', di Franco Baresi, bla bla, posso andare avanti per un po', ma spiegatemi dov'è il cattivo esempio. Uno che supera limiti fisici, fisiologici, che torna, cioè, per me giù il cappello, tutti in piedi sull'attenti. Sì. Io sono d'accordo. Ripeto, poi puntualizzando il fatto che qui non si parla di una persona che incoscientemente è salito sulla moto e ha detto vediamo che succede. Io sono assolutamente certo che ha fatto una valutazione con il suo staff, con i suoi medici, ma chiaro, soprattutto con se stesso, e ha fatto il risultato. Cioè, voi fate esempi di Capirossi, mi ricordo di Aldi, si lo so, una spalla, Stoner con un piede rotto ha fatto il risultato dopo pochi giorni. Quindi loro probabilmente hanno delle caratteristiche ancora diverse da altri, non so se il motociclismo ha questa prerogativa, ma ripeto, sono persone straordinarie, ma lo fanno con razionalità. Certo, per me è un bellissimo esempio, ma non va assolutamente preso come esempio della gente normale. Certo. No? Grazie Yuri. Ma grazie a voi, convocateli spesso perché mi fate sempre piacere. Grande, grazie Yuri, grazie, non mancheremo. Grazie a Yuri Checchi. Grazie a voi, grazie. Oh, grazie, grazie ancora. La chiusura la facciamo sul ciclismo. La facciamo sul ciclismo, che oggi ha celebrato il mondiale. Non mi interessa di quello che succederà domani, aveva detto ieri presentando il mondiale. Io quando monto in bicicletta ho soltanto un obiettivo: divertirmi. E ufficiale. Si diverte anche così, con un photo finish grazie al colpo di reni per guadagnare quasi di mezza ruota, sì. Quasi di mezza ruota la vittoria nei confronti di Alexander Kristoff. La terza posizione invece per Michael Matthews. Peter Sagan, ora lo possiamo dire, definitivamente consacrato nella storia del ciclismo. Terzo mondiale consecutivo. È finita così a Bergen. Sagan campione, terza volta consecutiva dopo Richmond e Doha. Italia, cui adesso faremo la pagella. Piero Augusto Stagi, ciao. Ciao Pierino. Buonasera, ciao a tutti. Perché dopo Yuri Checchi. Che vuoi? Dopo Yuri Checchi un altro fenomeno. Non Stagi, dopo Yuri, con tutto rispetto per te. Dopo Yuri Checchi arrivo altro, io. Arrivi tu. Ma con la scorta di Sagan, però. Un altro fenomeno, non è il pur meraviglioso per Augusto Stagi, ma Peter Sagan. Esatto. Quindi? Un immenso Peter Sagan. Quindi io godo, posso dirlo? Lo dico. Perché spudoratamente tifavo Italia, è chiaro, certo. Fino all'ultimo, fino alla fine, se c'è la volata da fare, si spera nella giornata più bella del mondo per Matteo Trentin, che però ha ottenuto il massimo, forse meritava per il suo finale di stagione. Cos'è arrivato alla fine nel gruppo? È arrivato quarto, che quarto. È onestamente il piazzamento più brutto che ti possa accadere. Era meglio quinto. Dopo quattro vittorie alla Vuelta ci giocavamo questa grande carta. È arrivato il quarto posto, però è il massimo, è andata bene così. Però se doveva vincere uno straniero... Ma abbiamo qualcosa da recriminare, poi parliamo di Peter Sagan. Abbiamo qualcosa da recriminare per come è andata per noi italiani? No, io devo dire che Davide Cassani, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche con Carlo, ha portato alla formazione migliore. Forse devo dire che sono mancati, in modo particolare, non voglio mettere la croce a Sonny Colbrelli, ma è mancato lui, perché onestamente A Viviani gli abbiamo sempre imputato il fatto di non avere la distanza. L'abbiamo portato, Cassani l'ha portato giustamente perché stava andando bene, ha fatto un mese di agosto eccezionale ed è stato quasi un riconoscimento per la medaglia d'oro di Rio in pista. Sonny Colbrelli invece è un corridore che in condizioni meteorologiche come quelle norvegesi, quindi 10-15 gradi, con anche un po' di pioggia e soprattutto sulle lunghe distanze, si è sempre difeso bene. E invece è mancato. Ecco, l'uomo che è mancato è stato Sonny Colbrelli. Per il resto siamo stati perfetti, li abbiamo portati lì. Sì. Nel finale abbiamo avuto anche un attimo di batticuore a 5 km dal traguardo, Alain Philippe, sì, Gianni Moscon in fuga. Devo dire, ahimè, do una notizia che è arrivata ora, quindi non la sanno ancora nessuno. Gianni Moscon è stato squalificato perché in realtà è rientrato, voi sapete, a due giri dal termine, era rimasto coinvolto con Greg Van Avermaet in una caduta, è rientrato in gruppo facendo scie e la giuria l'ha bacchettato, quindi l'ha tolto dall'ordine d'arrivo. Senti, quindi, raccontami, vabbè, per chiudere, raccontaci la volata di Sagan. La volata è stata magistrale. Peter Sagan in questo mondiale era l'uomo invisibile, non l'aveva visto nessuno. Vorrei ricordare che lui è arrivato per ultimo a Bergen, gli hanno detto: ma tu hai provato il percorso? No, perché bisogna provare il percorso, e ci sono 11 giri da fare per impararlo. Lo imparerò, siete convinti? Questo è l'atteggiamento mentale di questo fenomeno. Lui ha imparato un po' il giro, è rimasto nascosto fino a 500 metri dal traguardo. A quel punto, visto che aveva imparato bene il percorso come Valentino Rossi, suo idolo, che lui dice sempre: ragazzi, io in bicicletta mi annoio, non c'è nulla di peggio del ciclismo, è uno sport noiosissimo, è per quello che io faccio le impennate, è per quello che io mi invento qualcosa per divertire il pubblico, come Valentino Rossi diverte me. Bene, lui alla Valentino Rossi aveva battezzato una curva, l'ultima a 350 metri, aveva battezzato anche la ruota più veloce, il campione d'Europa Alexander Kristoff. Bene, volata a due per distacco, perché tutti gli altri hanno fatto, il resto del mondo hanno fatto un'altra volata a 50 metri indietro, loro due invece davanti al photo finish, colpo di rene spaziale di Peter Sagan, e diventa il primo uomo nella storia del ciclismo a vincere tre campionati mondiali consecutivi. E come dicono mai quelli bravi, nessuno come lui. Potrebbe non essere finita grande, qui, anche se grande, l'anno prossimo grande. Credo sia un po' più complicato il percorso. Da quello che ci ha dato sapere, il mondiale di Innsbruck c'ha 5.000 metri di dislivello. È un mondiale per un corridore che io ho nel cuore, ne ho due in realtà, Vincenzo Nibali e Fabio Aru, in rigoroso ordine di nascita. Quindi noi cominciamo a fare il conto alla rovescia da adesso, Pier. Ti dobbiamo salutare, che c'è il GR. Io credo che il prossimo anno potremo dire qualcosa. Vi diamo già l'appuntamento per l'anno prossimo. Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Gianmarco Ferronato in regia. Carlo Genta torna domani dopo delle 14 con Pierluigi Pardo. Tutti convocati il weekend, invece, torna regolarmente domenica alle 17 per le consuete due ore di diretta. Ciao a tutti.